Un grande elemento di questo piano, che per me è importantissimo appunto, è che c'è stato un grande lavoro di convergenza tra i vari femminismi, c'è una grande inclusione del movimento transfemminista, del movimento queer. Io personalmente vengo da tantissimi anni di attivismo nel movimento LGBT e per me il lavoro di quest'anno mi ha dato più soddisfazione e più riconoscimento di tanto lavoro fatto nel movimento LGBT, dove molto spesso non si arriva a una lettura così sistemica, così strutturale dei nodi di potere e della violenza che ci opprimono, che ci costituiscono. E quindi io spero che nulla di meno travolga il movimento LGBT in Italia e nel mondo, ma questo è un mio dato proprio soggettivo. E quanto al piano, ovviamente non è perfetto, va visto secondo me come il prodotto di un grande sforzo di convergenza, di sintesi anche tra grosse differenze, è il frutto di un processo di grandissima mobilitazione dal basso, di 4 assemblee nazionali, tavoli, siamo divise in 9 tavoli tematici, tavoli locali, tavoli nazionali, plenarie. È stato fatto per un gruppo redazionale che a partire dai report di tutte le assemblee nazionali ha cercato di fare questo montaggio di un testo che fosse anche fruibile. Quindi sicuramente qualcosa si è perso, ma sta sempre nel processo e va sempre ripreso e rilanciato. Secondo me è anche molto bello, proprio è leggibile, insomma è difficile anche spiegare processi che sono molto complessi appunto. Parla di violenza maschile sulle donne, come violenza appunto, come paradigma della violenza patriarcale, parla di violenza di genere e quindi sulle donne e su tutte le altre soggettività che rompono, diciamo, il binarismo di genere, lo mettono in discussione, e parla di violenza del genere e quindi dell'imposizione di ruoli rigidi di maschilità e di femminilità che noi combattiamo proprio per liberarci dalla violenza maschile. Quindi fin dalle premesse c'è questo passaggio molto importante. È uno strumento, che cosa ne faremo? Dobbiamo decidere, ci sarà anche un'assemblea il 26, il giorno dopo, l'Assemblea Nazionale a Roma, in cui si comincerà a decidere, ma già abbiamo iniziato a parlarne anche a Bologna. È uno strumento, ogni frase, ogni parola di questo piano può essere uno strumento di lotta, di rivendicazione, di agency, di autodeterminazione, di conflittualità a tutti i livelli, no? E quindi secondo me l'auspicio è che noi adesso che abbiamo una traccia, una cornice, possiamo cominciare ad agirla nel nostro quotidiano, nelle nostre lotte quotidiane. E questo mi sembra anche molto importante. Rispetto al processo che ha portato a questo, cioè noi avremo un piano del governo. Noi abbiamo voluto anche mostrare un processo molto allargato di partecipazione dal basso, in cui ognuna, a partire da sé, dal proprio posizionamento, può dare un contributo, che non è solo una richiesta al governo, non è solo una richiesta di risorse che sono importanti a tutti i livelli, è un atto collettivo di trasformazione, perché ovviamente queste strutture che costituiscono la violenza maschile sono concrete, ma sono anche immateriali, sono culturali, sono nell'educazione, sono nelle relazioni, sono nel modo in cui costruiamo la nostra soggettività e quindi richiedono una trasformazione che può essere solo collettiva, perché come la violenza non è il frutto di un singolo deviato, un singolo o malato, o che non riesce a controllarsi, eccetera, ma abbiamo sempre detto è strutturale ed è frutto di una cultura, di una società, di un'economia, di una divisione del lavoro sessuale, di una discriminazione, di uno sfruttamento delle donne, eccetera, eccetera. Anche la lotta per distruggerla deve essere assolutamente collettiva e trasversale. Quindi l'invito è anche chi può si fermi il 26 a Roma e comunque penso che Bologna abbia dato un grosso contributo a questo piano, sia con creatività, con forza, con energia, con la capacità anche di mettersi in rete e sia uno dei territori che insomma può dare un grosso contributo anche a immaginare forme innovative di lotta politica e di organizzazione politica per anche, diciamo, con gioia riuscire a lottare e continuare a lottare per applicarlo a questo piano. E ovviamente il piano non è solo di confronto con l'istituzione, ma è proprio di trasformazione sociale, di trasformazione culturale.